Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. 451 frammenti sonori rientra a sorpresa, forse relativamente, però non avevamo programmato come 451 una puntata oggi 21, anzi ormai 22 luglio, ma abbiamo fatto questa piccola sorpresina agli ascoltatori, a quanti saranno in ascolto casualmente o appositamente per ascoltare la nostra trasmissione. Un saluto chiaramente in partenza da Eliseo Scarpa, cioè il sottoscritto, un saluto anche a Max Macchia, che non sarà presente stasera in trasmissione. La trasmissione di chiusura ufficiale è stata già effettuata 2 settimane fa, ma avevamo lasciato aperta la possibilità che potessimo rientrare in diretta con una puntata sorpresa, e effettivamente siamo riusciti anche a realizzarla. Una puntata nel pieno dell'estate, nel pieno del caldo torrido di Bologna. In realtà queste ultime 2 giornate sono state sicuramente meno faticose ed opprimenti, ma rimane sempre una bella cappa, ve la dico io che sono appena rientrato a Bologna ed ero in altre zone dove effettivamente il fresco c'è stato, a differenza di questa città che appunto vive sempre questa dicotomia inverno-estate abbastanza pesante. Ma bando alle previsioni meteorologiche, il clima è caldo in tutti i sensi, non soltanto dal punto di vista appunto meteorologico, ma anche politico e sociale in tutta Europa, in particolare in Spagna. Speriamo che anche in Italia ci si svegli, data la situazione devastata di questo paese, e noi non affronteremo un tema legato a questo, ma forse un tema connesso a una certa dimensione estiva, una dimensione anche che spesso porta a una sorta di distanza, di allontanamento, di rarefazione rispetto alla vita cadenzata dal lavoro e dai ritmi produttivi della città durante, direi, la stagione più legata al lavoro. L'estate è una sorta di cuscinetto che ormai sta saltando, forse anche per certi versi finalmente, perché era anche una presa in giro. E dentro questo clima un po' strano, anche in città, particolarmente strano è sicuramente agosto, dove appunto la città assume dei contorni assolutamente nuovi, inediti, insospettabili, con una sorta di svuotamento complessivo, e molte volte anche divertente godersi la città proprio ad agosto. Ma anche luglio, in questo periodo, soprattutto nel fine settimana, la città comunque si svuota e dunque si ricrea un clima abbastanza interessante. Dentro questo contesto che vi ho infarcito in maniera abbastanza strana, andremo a presentare il tema di stasera, che è legato appunto all'astrazione, alla rarefazione, e si intitolerà questo percorso sonoro di stasera di 451 frammenti sonori Abstract Jazz. Che cosa significa? Beh, può significare tutto e nulla. È un termine legato ovviamente a una sorta di astrazione, un jazz che si astrae dalla dimensione ben conosciuta e anche dalle varie diramazioni che spesso abbiamo affrontato all'interno di 451 frammenti sonori, passando dal jazz psichedelico al jazz elettronico, a tutte le diramazioni connesse tra jazz e contemporanea, a una trasmissione di qualche mese fa condotta splendidamente da Max Macchia intitolata Jazz ed Estetica. Stasera ci muoviamo su un altro crinale, quello del jazz astratto, che ha attraversato tutti i decenni del Novecento con le sperimentazioni più avanzate, ma che noi stasera affronteremo più su un tema meno legato, diciamo, ad aspetti filologici, ma appunto ha una dimensione sonora estremamente astratta, dove il jazz attraversa questa dimensione del suono in maniera assolutamente anomala. E affronteremo sia autori musicisti legati al jazz, cresciuti nel jazz, ma molti invece che attraversano territori che sono più squisitamente legati all'elettronica, a dimensioni più o meno connesse alla contemporanea, dove il jazz appunto è un linguaggio che si interseca a dimensioni estremamente rarefatte, quasi estranianti, e per questo abbiamo voluto definirle astratte. Abstract Jazz, dunque, è il tema di stasera, e apriamo con un autore che non tantissime volte abbiamo inserito in 451, ma un autore assolutamente fondante della musica sperimentale elettronica e contemporanea degli anni 60-70, ma anche per certi versi ha attraversato anche gli anni 80 e 90. Parliamo di David Berman, austriaco di nascita, ma subito spostatosi negli Stati Uniti d'America, musicista legato alla musica elettronica e alla musica contemporanea, è anche fondatore della Sonic Art Unions negli Stati Uniti tra gli anni 70 e gli anni 80, è anche co-direttore del Centro della Musica Contemporanea al Mills College tra gli anni 70 e gli anni 80, e anche grande creatore di musiche per bambini, per musiche per documentari, attraversando dimensioni connesse a un'elettronica molto giocosa, estremamente astratta, e il jazz attraversa spesso le composizioni di Berman, soprattutto nel dualismo e nella intersezione tra musica minimalista, appunto, e musica jazz connessa comunque al linguaggio black. E andiamoci a sentire, in apertura appunto della puntata speciale di stasera, un album molto particolare, assolutamente anomalo per la costruzione dall'inizio alla fine di questo progetto musicale di David Berman, uscito nel 1992. Si tratta di Unforeseen Events, dove appunto lo stesso Berman si diletta e si diverte a lavorare tra elettronica, musica quasi impossibile, e jazz, che attraversa appunto una dimensione estremamente astratta, soprattutto nel brano di apertura di questo disco, Few Felder, che aprirà anche la puntata di stasera di 451 Frammenti Sonori. Andiamoci dunque a sentire David Berman, Unforeseen Events. Buon ascolto. Ah.

Thank you. E siamo rientrati in diretta, abbiamo ascoltato e mixato il lavoro di David Berman, Unforeseen Events del 1992, e siamo passati dentro un universo più legato al jazz con Bobby Previte, musicista e jazzista ormai di assoluta fama, che ha lavorato con i più importanti musicisti negli anni 70 e 80, anche nel periodo più disastroso. Infatti Previte poi negli anni 80 è caduto anche in meandri abbastanza inquietanti che hanno, diciamo, coinvolto anche altri musicisti del jazz più sperimentale d'avanguardia negli anni 60-70, ma negli anni 70 appunto con Jack DeJohnette, Bob Moses, Ian Williams, ha lavorato insomma con ottimi musicisti e ha sempre cercato di costruire un piano legato a un jazz d'avanguardia, un jazz visionario anche in alcuni momenti, anche in questo disco che ha dei momenti più e meno interessanti. Album uscito nel 2003, 23 Constellation of Jean Miró, dedicato ovviamente a Miró, ma al di là di questo aspetto è un disco che in alcuni brani, tra quelli che diciamo ritengo più interessanti, abbiamo selezionato appunto queste quattro tracce da ascoltare per dare una visione, se possiamo dire così, di un jazz astratto e visionario appunto costruito da Previte, con queste dimensioni anche quasi sognanti, estremamente portate verso una visione aperta, gioiosa e anche solare. E da Bobby Previte, da un jazzista doc, potremmo dire, entriamo invece dentro l'universo di un musicista che non esce assolutamente dal jazz, ma che ha affrontato il jazz soprattutto e quasi direi esclusivamente in questo disco uscito l'anno scorso, Still Life del 2011. Parliamo di Aidan Becker, che abbiamo già inserito all'interno di una trasmissione di qualche tempo fa, di 451, ma dentro un universo completamente differente, essendo Aidan Becker, musicista di Montreal, chitarrista estremamente raffinato e attento alle sperimentazioni sul suo strumento, un artista appunto che è nato e è cresciuto dentro la dimensione legata all'elettronica e soprattutto alle dimensioni più squisitamente connesse all'ambient in tutte le sue diramazioni. Importanti collaborazioni soprattutto con Tim Maker, autore che 451 ama particolarmente all'interno delle proposte musicali più interessanti di questi ultimi anni, connesse all'elettronica, che trova una sorta di coniugazione tra rumore e suono ambientale. Anche Aidan Becker lavora su questo tipo di direzione, ha iniziato diciamo a lavorare alla fine degli anni 90 in termini musicali, utilizzando la sua chitarra in una dimensione assolutamente sperimentale, dunque utilizzando suoni che si spingono verso appunto frequenze ambientali e rumoriste, ma in questo disco in particolar modo Still Life entra dentro una dimensione jazzistica ma estremamente astratta, in una dimensione che incrocia jazz e minimalismo e dove quasi la dimensione ambientale si ritrova in una sorta di costruzione piuttosto anomala anche rispetto ai dischi precedenti, che sono circa una decina prima di Still Life. Un autore che comunque in 12 anni direi di produzioni musicali ha realizzato veramente moltissimi dischi e ha sperimentato su vari fronti, tra cui appunto anche la dimensione jazzistica, seppur appunto inserita dentro una dimensione astratta e dentro una sorta di colloquio, potremmo dire, fra dimensioni sonore legate all'ambiente da una parte e dall'altra a una dimensione appunto minimalista. Andiamocela a sentire dunque Aidan Becker da Still Life 2011, dunque continuiamo il nostro percorso nel abstract jazz. Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta ascoltando appunto questo splendido lavoro di Aidan Baker, Still Life 2011. Ed Aidan Baker, andiamo verso la fine ormai della prima parte della puntata, andiamo a trovare un artista assolutamente poliedrico, personaggio che ha assolutamente segnato la musica degli anni Ottanta con sperimentazioni importantissime sul piano musicale, uscito anche dalla dimensione della musica industriale, ma poi attraversato in maniera assolutamente unica e originale le dimensioni legate al jazz, ma appunto in una dimensione estremamente astratta, estremamente sperimentale, ma è abbastanza riduttivo anche utilizzare questo termine, perché la dimensione in cui si è collocato David Cunningham, parliamo appunto di questo straordinario musicista, soprattutto all'inizio degli anni zero, dunque in una dimensione legata sia all'elettronica, che aveva già ben attraversato in passato, ha cercato anche di trovare quei ponti, quei collegamenti con il linguaggio jazzistico, riportato però in una dimensione assolutamente unica e personale, nel modo soprattutto dell'utilizzazione dei fiati, che sono fondanti in questo splendido lavoro, che è stato realizzato insieme a Yasuaki Shimizu. 100 l'album, uscito nel 2009, dunque piuttosto recente, dove appunto Cunningham lavora con quest'autore giapponese costruendo questa sorta di sperimentazione legata al jazz, ma che va anche oltre appunto l'elemento jazzistico, per creare un suono estremamente evocativo e anche magico in alcuni momenti, in simbiosi anche e in estrema coerenza anche rispetto al percorso del suo passato, costruendo delle dimensioni chiaroscure estremamente affascinanti e magiche. L'album 100 è un album che è passato anche per molti versi sotto silenzio, ma che particolarmente i musicisti, gli autori, i critici più attenti hanno subito individuato come un album molto importante nella scena degli anni zero, soprattutto appunto per la grande capacità di costruire un suono e una dimensione sonora assolutamente originale, fondendo elementi che spaziano dal jazz all'elettronica, alle dimensioni ambientali e minimaliste, per poi arrivare anche a una dimensione concettuale comunque connessa alla musica industriale, anche se appunto l'ascolto potrebbe sicuramente non far ricordare quel tipo di sonorità e quel tipo di attitudine sonora. David Cunningham dunque da 100 insieme a Yasuaki Shimizu nella costruzione di questo viaggio connesso all'utilizzazione in maniera assolutamente geniale di fiati connessi anche a strumenti elettroacustici ed elettronici, scusate, per costruire appunto un flusso sonoro assolutamente unico. E noi andiamo ad ascoltare da questo splendido album, che circa un paio d'anni fa avevamo inserito all'interno di un'altra trasmissione, che andiamo dunque a distanza di tempo a riprendere per ascoltare un altro brano assolutamente importante, il brano poi oltretutto di chiusura di questo disco, l'ottavo brano di 100, per chiudere anche la prima parte della trasmissione. Noi chiaramente ci ritroveremo nella seconda parte della trasmissione dopo il GR di Radio Popolare Network, intorno all'1:10 ripartiremo nel nostro viaggio sull'abstract jazz. Buon ascolto e a dopo. Thank you.